peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Direi che a Salpinaz è frequente che si cerchino perlomeno delle strade di confine per andare a individuare i punti di contatto tra la musica contemporanea, la musica cosiddetta classica e l'espressione jazzistica. Questa ha una lunga storia che parte dagli inizi del jazz, poi per svilupparsi e diventare sempre qualcosa però di diverso. Attualmente ormai i linguaggi si intrecciano in maniera anche difficilmente riconoscibile o perlomeno identificabile con etichettature. Risentono l'una cosa dell'altra in modo spesso diverso. Alcuni musicisti ne hanno fatto una sorta di percorso, come dire, di carriera. Penso a Hurricane, che negli ultimi anni, ma non molti anni, praticamente si è dedicato quasi solo a questo tipo di reinterpretazione e di lettura. Altri che invece lo fanno in maniera più occasionale e anche con, a mio avviso, una ricerca più mirata, diciamo, perlomeno cercano un'attinenza tra il linguaggio jazzistico e quello che può essere la natura, la natura profonda, diciamo, del musicista al quale fa riferimento. Oggi ho portato due lavori che hanno questo tipo di carattere e che a mio avviso sono tra le cose meglio riuscite in questo ambito. Sono decisamente due bei prodotti, due bei progetti. Non recentissimi, il primo che ascolteremo risale già 4 anni fa, è uscito nel 2010, e il secondo invece è della fine dell'anno scorso. Partiamo dal primo progetto, che è guidato da Lucien Ban e John Ebert, ed è dedicato a Enescu, a George Enescu, musicista rumeno. Questa reinterpretazione è stata commissionata da un festival rumeno. Da ricordare che Lucien Ban, è un musicista di origine rumena che poi si è trasferito altrove. Ma comunque il lavoro è stato prodotto e quindi è una registrazione fatta a questo festival, e quindi una registrazione dal vivo. Ascoltiamo il primo brano, che è una composizione, non ricordo poi, George Enescu è stato un grande violinista, oltre che un compositore importante, soprattutto della prima metà del Novecento, infatti poi muore nel 55, quindi risente anche di questa impostazione di scrittura. Qui ascoltiamo il primo movimento di una sonata, di una rilettura di una sonata. Thank you. Questo era il lottetto di Lucian Ban e John Ebert. Bella questa rilettura dei classici di George Enescu, perlomeno di alcune delle sonate, di alcuni dei lavori cameristici di Enescu, perché ci sono affinità nello spirito e nel linguaggio di Enescu con quello che è poi lo spirito anche del jazz stesso. In pratica la radice comune diventa quello spirito del Novecento che abbraccia culturalmente poi varie situazioni, diciamo anche locali. Due cose sui musicisti. Lucian Ban è musicista rumeno, appunto, con un'attività però internazionale, un'attività abbastanza limitata tutto sommato. È conosciuto soprattutto per le collaborazioni con Matt Manieri, e col quale peraltro ha fatto recentemente anche un disco per l'ECM, naturalmente con questa inflessione molto cameristica. E altro discorso per John Ebert, che musicista nato a New Orleans ma poi trapiantato a New York ed è uno dei protagonisti, come sideman soprattutto, e della scena musicale newyorkese. Ha lavorato e lavora con tutta l'avanguardia attuale. E, peraltro poi almeno l'attenzione su di lui in Europa direi che si è posta soprattutto per la presenza nel trio di Mary Halvorson, almeno io l'ho conosciuto nel trio di Mary Halvorson, nelle nostre frequentazioni di Saalfelden. Direi che da lì in poi ha continuato sia nelle collaborazioni con Halvorson che come attività anche di leader. Ha guidato un progetto uscito poi per la Clean Feed che abbiamo presentato a Saalpeanuts, e questo è un altro esempio delle sue capacità. Quindi speriamo anche che continui come leader e anche come organizzatore di musica. La formazione è di altissimo livello, perché oltre naturalmente a John Herbert al contrabbasso e Lucian Ban al pianoforte, Ralph Alessi, che l'abbiamo ascoltato in un incipit alla tromba, notevolissimo peraltro, Ralph Alessi che sta maturando sempre più, sta dimostrando qualità anche di originalità, non solo di tecnica. Forse anche le collaborazioni frequenti con molti musicisti diversi gli danno uno stimolo sempre maggiore. Tony Malaby, un altro fenomeno al sax tenore, un altro dei protagonisti sulla scena attuale. Matt Manieri, appunto, alla viola, che come spesso accade collabora con Lucian Ban. Poi Albrecht Maurer al violino, poi alla batteria Gerald Cleaver, quindi un altro straordinario batterista che viene sostenuto alla tabla dalle percussioni, curiose anche in questo caso perché danno una sorta di sapore indiano che non c'entra niente con Enescu, ma che invece si inserisce perfettamente anche nel tessuto di questi arrangiamenti. Appunto alle tabla Badal Roy. Ascoltiamo adesso un altro delle composizioni di Enescu. Thank you. Questo era l'ottetto di Lucian Ban e John Ebert, dedicato, diciamo, alle musiche riarrangiate, rilette, riviste, rivisitate di George Enescu. Un lavoro uscito 4 anni fa per la Sunnyside Records. E sempre un'altra delle aspirazioni è quello di cercare anche delle pagine tra le meno conosciute poi del jazz, questa è una delle altre intenzioni di Sal Peanuts, quindi anche proponendo musicisti meno conosciuti, e credo che sicuramente sarà il caso del prossimo, è Dan Willis con il gruppo dei Velvet Gentlemen, con un progetto dedicato alle musiche di Satie. È uscito qualche mese fa ed è un secondo capitolo. Dan Willis ha dedicato appunto a Satie 2 dischi, entrambi riusciti decisamente bene. Satie peraltro è stato uno dei primi musicisti europei, della cultura europea, a guardare con interesse alla musica jazz, a quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Penso ad esempio la prima composizione di ragtime di tutta quella schiera di francesi che poi dedicheranno, non solo di francesi, ma dedicheranno a questa forma musicale delle composizioni. Il primo che io conosca è appunto Satie, che è del 1901. Quindi è anche Satie, è per sua natura, per la sua leggerezza, per la sua anche, come dire, scanzonata vena creativa, che facilmente può essere avvicinato anche a riletture di tipo jazzistico. Non è la prima volta, sono diverse ormai le esperienze che sono state fatte in questo senso. Penso ad esempio già dalla fine degli anni 70 o inizio anni 80, il lavoro fatto dalla Vienna Art Orchestra, che era senz'altro ben costruito e positivo. Quindi sono molte le occasioni per l'attenzione nei confronti di Satie. Questa direi che è sicuramente, a mio avviso, una delle più riuscite, anche perché le pagine che va a rileggere sono spesso non tanto frequentate e comunque molto molto gradevoli, un ascolto molto piacevole. Poi parleremo anche del musicista. Thank you. Questi erano tre brani presi da Nguyen e poi da altre composizioni per pianoforte. E le più conosciute sicuramente sono Nguyen. I musicisti, appunto, Dan Willis e i Velvet Gentlemen, è una formazione che ha dato già diverse, è una sorta di workshop, diciamo, che ha dato diverse prove. Diciamo che Dan Willis è sicuramente una vita da gregario, non è più giovanissimo, ha un'attività che è già più di una ventina d'anni al suo attivo. Ha una collaborazione costante con John Hollenbach, e la maggior parte dei lavori di Hollenbach lo vedono presente, addirittura anche come ospite con il Claudia Quintet, sempre nelle formazioni orchestrali e anche in vari altri contesti. È un musicista con un linguaggio, un sassofonista, polistrumentista, con un linguaggio abbastanza riconoscibile e anche intelligente, interessante, che mette insieme appunto questa formazione con l'aiuto naturalmente di John Hollenbach. Diciamo che i nomi spesso sono anche sconosciuti, però non tutti, penso a Kermit Driscoll al contrabbasso, oppure a Pete McCann alla chitarra. Quindi poi si aggiungono, sono 10 gli elementi, si aggiungono violino, vibrafono, basso elettrico e altri, fisarmonica, insomma, diversi strumenti, che sono poi coloriture anche per dare una lettura orchestrale più intrigante, anche più vicina alla rilettura, diciamo, di Satie, per tenersi comunque costantemente vicini allo spirito di Satie. E ascoltiamo adesso altre tre composizioni prese sempre appunto da Satie. Thank you.

Questo era il Dan Willis e i Velvet Gentlemen nel secondo volume del progetto dedicato a Satie, e un disco uscito per la Dywood Drive Record qualche anno fa ormai, all'inizio di quest'anno. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, quindi vi posso ricordare che la trasmissione e anche le informazioni relative a quello che abbiamo ascoltato le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Thank you.